Torno la parola a Roberto per la conclusione, no? C'era un altro intervento, vero? Ah, grazie, buonasera. Finalmente ci conosciamo. Volevo dire che a mio parere qui la battaglia è ancora più dura di quella di Porto Recanati, perché uno, la giunta regionale nel 2008 all'unanimità gli ha dato un parere favorevole. Quindi, secondo, perché questa è l'API, la proprietà dell'API. L'API comanda non solo sulle forze di centrodestra, ma a mio parere anche su diversi esponenti del centro-sinistra. Quindi la copertura ce l'hanno. È vera l'osservazione che faceva lui, in acque internazionali poi servirà poco il parco, intanto facciamolo perché 20 anni che stiamo cercando di farlo e pare che parte soltanto Ancona. Il problema è poi nel dare i pareri, quando arriva il gasdotto arriva a terra, quindi il discorso di Falconare, il discorso di Porto Recanati. Su Porto Recanati è andata avanti, avete letto sui giornali, richieste ai comuni, quindi sarà più dura. Senz'altro sono d'accordo con la Bellini, a questo punto rifacciamoci la differenza anche loro, ma facciamo un coordinamento dei coordinamenti, in maniera da avere attorno al Conaro, contro questi due rigassificatori, l'unità poi tutti quanti coloro sono contrari. E come Italia Nostra chiediamo, penso sia anche la vostra intenzione, l'appoggio per organizzare innanzitutto un incontro ad Ancona, perché Ancona è una città morta. No, perché insomma succede di tutto, ma Ancona ai cittadini pare ne frega niente. Noi siamo intenzionati a muoverci su Ancona, quindi se poi è possibile coordinare un'iniziativa, come, quando e perché e con chi, grazie.